Componimento 116° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Pien di quella ineffabile dolcezza che del bel viso trasse in gli occhi miei, nel dí che volentier chiusi gli avrei per non mirar già mai minor bellezza. Lassai quel ch'i più bramo, ed ò sí avezza la mente a contemplar sola costei ch'altro non vede, e ciò che non è lei già per antica usanza odia e disprezza. In una valle chiusa d'ogni intorno, che refrigerio de sospir miei lassi, giunsi sol cum amor, pensoso e tardo, ivi non donne, ma fontane e sassi, e l'imagine trovo di quel giorno che il pensier mio figura ovunque io sguardo. Fine del componimento.